il culo, mi. Ah, io gli dicevo che parla con lui, ma non passa a prenderti qualcosa, tu. Oh, lui, sono qua. Non te lo so neanche dire. No, Luca, tu? Ah, tu mi hai chiamato. Antonio l'ho chiamato 3 giorni fa, mi ha risposto stamattina. Antonio, quando a me è capitato anche un mese passato, anzi, a te è andata bene. A me dopo un mese mi ha risposto. Ah, quindi vuol dire che sono privilegiato? Mi sembra più di sì. A me manda messaggi, risponde subito, lo telefono, mi risponde subito. Non è a tutti che fa così. Vabbè, bisogna amare. Vuol dire che sta contando, quel percorso non ci rispondeva. Cazzi vostri, insomma, io glielo do ogni tanto, se voi non glielo date, non si può già dirvi. Luca, lui risponde a chi ti sta chiamando. No, ma deve, Dani, ma Luca Pippa sta chiamando. No, all'altro Luca, su Cugiamenti. Dimmi, cosa dice su Cugiamenti a me? Dimmi tutto, Lillo. Come accumare mi ci rispondenti? Beh, quei pezzi piazzati te li hai? Allora, sì, quel pezzo l'ho piazzato, quello delle lampadine a posto, però il motorino di nuovo a picche. Allora c'è qualche problema tu, perché quel motorino era nuovo, assolutamente, ne abbiamo messo gli hai, non è che ne abbiamo, ne hai, perché le cose ho piazzato tu, mica te li piazzo io. Ti hai messo già 3 o 4 e ti hanno fatto tutti quanti lo stesso difetto. No, diciamo che già apre, dopo il secondo, conoscaci, la seconda volta apre il cofano. Ma sai cosa ti dico? Non c'è la biglielluccia, va, che la macchina va burre da Isuia, c'ha 2006, 14 anni. A voglia. Però calcola che anche la mia, che ha 13 anni, è ancora un acciacco. Aspetta che me li tocco, per fortuna. Oh, io avevo la Matteo GLX 1006, l'ho tenuta a 18 anni, l'ho voluta versare io perché ero stufo di averla, non ho mai avuto niente con la macchina, sempre tagliando il regolare per le varie. Dopo 18 anni ho detto, basta. Ah, Dani, sai se mi sono dimenticato di dirti se era possibile, se lo so, rompicoglioni, lo so. Però me ne dimenticavo sempre, adesso che me ne sono ricordato, sai cosa mi serve? Il rinfrangente, quello rosso che c'è dietro, perché gli si erano sbattuti dietro, l'aveva perso. Se ce la fa procurarmelo, pagheni, ovviamente, quello rosso. Ma qual è quello che ci ha attaccato al paraurti? Via, positivo, sì, proprio quello. Ah, già è una cazzata quella lì, già te lo prendo, già te lo porto. Anche se la macchina insomma, è in condizioni un po' così, il motore è già a posto, dai, fatta frizione, tutto quanto, è a posto, la pompa dell'acqua, poi cosa che ha fatto? Boh, non mi ricordo, vabbè, poi il resto, freni, pastiglie, dischi nuovi, insomma un po' tutto, dai. Vabbè, avanti Tino. No, a me mi servirebbe invece un bravo elettronico, chi è che ne conosce qualche uno, cazzo, perché freno e mi secciona le luci davanti. Non c'è più quello, il via, che via è quello? Quell'elettronico che c'è attraverso via Pascoli. Porca miseria. Mi pare che ci vada Gianni lì. Gianni! Più Luigi Mugato sta dicendo. Sì che c'è, già è bravo Più Luigi. Già. È un po' caruccio ma già è bravo. Ma cosa c'è dentro? Sì, agusi, quello che voleva. Adesso io devo cambiare, te li passo. Ma vai, ci mi auguro. Asco, ma in che monte lo stai dicendo? Ma vai, quello non distingue, è una piscita, un buco del culo. Perdere, vai. Quello, sì, è bravo, ma è un beccato. Ma ha cambiato una lampadina a 5 euro, ma ti puoi immaginare? Ma vai. Era molto bravo quello di via Campidano, Solinas, è morto poverino. Cavolo, a me non mi ha risolto un problema grosso. Cioè praticamente, allora, così non mi funzionava, accendi il sigaro, un casino perché c'era tanti fusibili, beh lui, cazzo, ci è riuscito. Sono andato neanche lì via Montello, sì via Montello è andato anche, non abbiamo bucato bene, lui in cosa c'è, fai 10 minuti, un quarto d'ora, non ha risolto il problema, sta sempre funzionando. Sì, vai da Lucio Corvetto, allora, c'è una cosa seria, vai da Lucio a Viale Porto Torres, dove c'era l'autoclub prima, lì te lo risolvo il problema, Lucio. Claudio. È quello che gli stavo per dire io, Claudio. Ah, quello lì già è bravo, fa anche mezzi polizia, esercito, carabinieri, quello già è bravo facendo la lettera auto. Però quello che ha citato Antonio prima era veramente in gamba, è bravo, bravo, ha molto, cioè ha molto lavoro. Guarda, io ti dico una cosa perché, oddio, noi lo frequentavo, però frequentavo dove frequentavo io. E purtroppo si è rovinato con le macchinette, ci buttava dai 500 ai 600 euro al giorno, meno le macchinette. Tutti i soldi che guadagnavo li buttava dentro le macchinette. Aspetta un attimo, lasciate anche un po' di bianco che ce l'avevo prima, voleva entrare, stavo dicendo cosa Claudio, che avanti. Sì, vi stavo dicendo, perché parlate tutti quanti, appena molla uno parte subito l'altro, almeno 2 secondi lasciate libero. Allora, stavo dicendo Cla, che stavo per dire anch'io quel nome lì, di quello di Viale Porto Torres, che è bravo, e fa mezzi dell'esercito, polizia, carabinieri, come le trauto quello lì già in gamba, e anche serio, diciamo, là, tra virgolette, che qualche mezzo anche a noi già ce l'ha fatto, già è bravo quello lì. Sì, però non eri tu da me. Non so chi era, se forse era Franco. Franco, tu eri? Sì, Cassa, buonasera, dai. No, mi sono allontanato. Stavo dicendo, Corbillo, quello che aveva portato, che diceva che non c'è più, comunque è chiuso. No, fra, beh, lui è in pensione, Uccio. Ehi, Uccio grande. È in pensione, cioè i figli ci sono, bravissimo. No, ci sono andato io da poco quando mi si è andata in tinta la centralina dell'Alfa. E proprio lui mi ha detto appunto che era partita, quindi l'abbiamo messa nuova, capito? Bravissimo. Ma non solo, c'è lui, c'è anche Gavino Pugioni, ci sono i figli di Gavino Pugioni, in via Sciotto Pintore, sempre in via Le Porto Torres, che sono molto bravi lo stesso, fanno sia meccanica che elettrauto. Cioè ce n'è, i vecchi ci sono. E so che lui era in pensione, e ci lavorava mio cugino Gianfranco Zai, cioè il mondo c'è Zai. No, vai tranquillo che già c'è. Sono T, non so se conosci Attore, a Torremanno, che fa un salto ogiro, anche lui c'è il figlio molto bravo in elettronica, e fa sia meccanica che elettrauto, capito? Quello lo conosco anch'io, sia lui che il figlio. Sì. Tu non tu stavi dicendo una cosa, Antonio Solina, ci sentilla, sì, molto bravo, l'ho conosciuto, veniva al bar di mio padre, insomma, frequentava lì, però anche lui purtroppo, insomma, se n'è andato, quindi. Sì, no, ma già trovo gente, ma era giusto per vedere chi più o meno poteva, io credo che sia qualche lampadina, qualche massa da ripristinare, perché tu stanno facendo le luci, mi stai facendo lo stop fisso, quindi è una cosa da controllare, una cosa seria, perché di notte adesso, sono scusa che fa buio subito, mi servono le luci, dai. No, mi va così lì, perché quando ho comprato la 600, io l'ho presa una ragazza incidentata, quello tutto fatto a mettere a posto, insomma, di carrozzeria, meccanica, eccetera, che non era così messa male di meccanica, però di carrozzeria è cresciuta. E la prima volta che mi sono seduto, cazzo, frenavo e partiva a di cristallo, sì, perché c'era il filo del motivo di cristallo che era penzoloni, spellato, no? Da un incidente che aveva avuto. Cazzo, come frenavo, deve essere toccava un pedale al filo e faceva massa e partiva a di cristallo. Vabbè, sono cose che, insomma, quando fa massa è un casino. Ma forse che la mia funzionava bene. Il giorno del, ma si parla dal 9 ottobre, il giorno del mio compleanno, un mio collega mi ha detto, beh, adesso ti davo bene la macchina, come fai che subi voi? L'ha presa e ha iniziato a lavarla, lì a lavorare dove stiamo lavorando noi. C'è l'altra, ma l'ha fatta, credi, bella, proprio splendente. E poi lui era lavagista prima, aveva il suo posto per lavorare, insomma, il suo locale. Stava lavorando con noi e mi ha fatto un regalo. Mette in modo tranquillo, ci sono le luci, perché se stavamo andando, però c'era un regalo di ritardo. Sì, allora è entrata qua a qualche parte, sì. Qualcuno va, però è facile che succedano queste cose, l'umidità stessa fa contatto con qualcosa, non è niente di grave. Devi intercettare dove è che sta facendo contatto, capito? sentire, ma non tanto a me, in quanto all'elettrauto, quando io lasciavo la macchina a sorso al depuratore, dove c'è entrato un topolino dentro, capito? E si è magnato, si è rozzicato tutti i fili sotto dove c'era, dove c'è proprio la centralina, no? Tutti i fili. Ecco, quando giravo il quadro si accendeva tutte, più spie c'erano più si accendeva, la luce di dentro, gli sportelli, le luci si accendevano la sera, un casino era, e stava diventando scemo. Alla fine se n'è accorto, no? E ha tagliato tutto, ha dovuto rifare tutto l'impianto nuovo, un casino mi ha costato. Ah, io che sono da ieri che sto cercando di parlare. Allora, parla col muro. Hai finito? Lasciamo bianco e non parli, lasciamo nero, non parli, attrabili in culo. Ho detto, Tino. Eia. Ma tu c'hai il gancio di traino, vero? È controllato che non ci sia umidità o qualcosa lì nella morsettina dei cavi del gancio di traino? Credo che non lo so, non l'ho controllato, ma è che sto facendo una stupidaggine. Credo che non c'entri niente con l'impianto degli stop e delle luci di posizione, se non c'è niente attaccato. Cosa c'entra? Ma quando tu accendi il quadro che premi il freno, premi il freno, lì arriva la corrente, anche se non c'è niente attaccata. Ah sì? Vabbè, ormai faccio una cosa, apro lo sportellino e gli metto lo spray per contatto, vediamo cosa succede. No, soffialo prima, con l'aria, soffiala bene quella presa, ragione Antonio, è successo anche al mio collega, il problema era lì, soffialo prima bene e poi le metto lo spray per contatti, che dove c'è entrata acqua lì, come te l'ha pulita dietro nel paraurti di dietro, ha buttato acqua con la pulivapor lì dentro. Ci provo, adesso non ho voglia di attaccare il compressore, sono spampanazzato qua, sono a radio e computer, quindi non ho voglia di uscire, se no avrei fatto anche adesso. Vabbè, fallo, comunque secondo me è lì. Ma non potevi chiamare prima e dirmelo che è fuori? Cazzo, tu perché me l'hai detto che c'avevi problemi con i fari? No, ma può essere, perché lì c'è sempre corrente, capito? Una volta che attacchi il carrello, quello è sempre in corrente quando giri il quadro, quindi è probabile pure, siccome parte tutto da lì, perché quando freni da lì ti va l'impulso per il carrello, quando accendi le luci hai le luci anche per il carrello, è probabile che sia lì il problema, perché altre soluzioni non ce n'è. Va bene, c'è Gianni Doppio Roma ancora, ci sei già? Sì, ti rilancio già subito un attimino. Ma scusate un attimino, io sto parlando del 9 ottobre, fino ad oggi sta ancora continuando a persistere il problema. Boh, va bene. Gianni, riprendi. Vabbè, chi cosa invece? Che leva già sui tiagucini? Che è passato quasi un mese. Non hai capito, Tino, non è l'acqua. L'acqua si sarà asciugata, ma ha formato la patina che comunque non gli fa fare massa. Io ci provo, Antonio. Perché io nel gancio ho l'adattatore, siccome ce l'ho sempre inserito, non posso fare altro che togliere l'adattatore, spostargli un po' di aria forte e poi il coso per i contatti. Posso provarlo, ma non c'è problema. Tu fai così e poi me lo fai sapere. Andare, adesso mi hai messo la curiosità, vedi. Gianni? Vabbè, ti ha fatto risparmiare 700 euro, eh. Addirittura, fratello. Che cos'è caro, dunque? Lui? Ti ha fatto risparmiare 500 euro. Comunque ha ragione Antonio, sono i contatti dal gancio dei triangoli. C'è qualche massa che non... qualche filo di massa che non sta facendo contatto. Vabbè, non vendiamo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Prima verifichiamo se è questo. Nel caso contrario, ringrazio il mio caro amico Antonio Riserva per avermi dato la cosa di farlo, vabbè. Danilo. Ehi, dimmi. Beh, riprendi, se no non lo prendiamo troppo noi. Siamo questi cibi che ci piace chiacchierare. No, tu pensi l'altro giorno ho incrociato una macchina, come ha schiacciato i freni, lui, come ha schiacciato i freni si è acceso lo clacson. E tu ti sei la messa nei baduiruzzi. No, ma il fatto è che io ho sempre gli stop inseriti, hai capito? Quindi quando freno nulla, non cambia nulla, rimane sempre in stop. Però quando ho le luci spente, freno, funziona lo stop e mi si accendono le luci davanti. Ok. Manca qualche massa o c'è qualche cavo a massa, che è diverso. La macchina è così, quando si accende qualche albero di Natale. Francia, dal principale alla Smart, gliel'avevo sistemato, che in poche parole gli mancava una massa. Schiacciava l'ottopoli, si spegneva il quadro strumenti. Gli ho sistemato una massa e la macchina sta funzionando bene. Sì, vabbè, ma si tratta di indovinare il punto massa. Dimmi Claudio. Allora, fai una cosa fatta bene invece, prima di mutolarti un gabbo. Disinserisci il connettore del gancio a traino, stacca i fili, se disegni lo attacchi tutto, lo disinserisci e guarda a vedere se c'è il problema. No, allora io ho una spinetta, non so se voi la conoscete, no? Perché non tutti i ganci traini sono precisi. Ho una spinetta che fa da adattatore per le spine normali del carrello. E quindi posso staccare quella e verificare. Esatto, fai così e vedi. Se il problema non c'è più, è lì. Allora devi agire su quella spina lì. Guarda che ti ho mandato un messaggio con l'IBAN. Davvero? Bello. Ma sembra preciso al mio questo numero. No, cambia l'ultimo, il tuo è 0 e il mio è 8. Dell'IBAN, quindi siamo già a livello alto qua. Non al di sotto dei 500 euro. Cosa ha detto Franco? L'ho sentito. Ma tardi, Cosa ha detto Franco? Cosa ne ho perso? Fatto qua, ma dove sei tu? No, sono qua, solo che mi sono andato ad andare a fare la pipì. Ho detto, chi ha detto Franco a Tino, dice, Antonio c'ha ragione, ti ha fatto risparmiare almeno 500 euro. E quindi devi mungere Tino. Ma io l'ho anche detto di non vendere la pelle dall'osso prima di averlo ucciso. Prima verifichiamo se è vero. Non c'entra niente, noi facciamo come il meccanico, prima mi paghi, poi se la macchina non funziona me la riporti. Funziona così? Beh, la maggior parte lavorano così. Qui ci sono i camuri di giorno quando fate nei camminetti. Ma non male che in campagna di nuovo l'avevo fatto uno di senno. Ah no, di tiriera. E una ne scido. Il camminetto è pronto. Beh, noi ci ti bacco. No, pagami prima, poi esci. Scusini che lo lava tutto, ti la mantenendo con le mani. No, davvero mio, la papà era venuto in campagna 30 anni fa, sì, 30 anni fa, anche forse qualcosa di più. Questo tipo di itiri che era un esperto di cammini, ha fatto gli azimenea, non tirava manco, si tira su Ciaviduro fumo. Solo come ti dice il bruciatore che l'ha fatta mamma, il primo giorno che ci ha invitato, cazzo, mi dice che mi la gara ruccia, va per l'azimenea, ovvia, la prima che viene vicino al fuoco, tagga, se abbiamo il fumo, vede. Occa, e invece a volte era successo un'altra, la casa degli punti, no? Ma è toccato. Questo qua era esperto in cammini, tutto quanto. Appena un buco che mi ha dato tanto da sotto, i scindini. No, ma figato, se sbagli con la canna fumaria l'hai presa in culo. Bello quanto sia il camminetto, ma la cosa principale è che deve tirare. Cazzo, se il fumo invece di tirare fuori, vai dentro casa e come ti bigliare in culo, già, cazzo di. Non ne sai fare, Esiminea. Allora, io ho pagato una persona per farmi il camminetto giù qua in cantina da dove c'è mio padre adesso, che qualche giorno dorme lì. Ma questo era un esperto consigliato, un esperto di camminetti. E ti dirò la verità che è anche abbastanza bravo. Il segreto del camminetto in una stanza chiusa è avere una presa d'aria. Io infatti quando ho visto questo tubo che stavo mettendo sotto la soglia del cammino, diciamo, ma cosa stai facendo? Ma no, questa è una presa d'aria che dobbiamo collegare fuori per far sì che prenda aria. Ma non devi mettere l'aria fredda? No, un attimino, quest'aria che entra serve per non far uscire i fumi. Ah, eccolo. Ci sono dici bravi gamuri vecchi, già sanno i fatti suoi, io ne ho visto fare, ma ti dico, ormai avevo la bocca aperta, ecco, ma perché stai mettendo queste, ci travi, andare in borsi, balosa, gandole, frettare i calzi, allora ti va a raccontare tutta la storia. No, vabbè, a me mi stava incuriosendo il fatto di questo tubo qua, che non l'ho mai visto, perché io ne ho visto fatti da altra gente, ma non con le prese d'aria, quindi è stata una cosa, insomma, una cosa ideale, perché non è mai fuoriuscito un coso di fumo, lui era bella profonda, d'angolo, ma qua ci devi dormire, ha detto io no, ma parliamo madre sì, allora non ti preoccupare che qua non uscirà mai fumo, ma vabbè, abbiamo provato e effettivamente era così. Anche quello che ho in campagna io, sì, lì vicino a sé, a... sotto la griglia, c'ha uno spazio e ha un tubo che va fuori. Sì, sì, a me me l'ha fatto, non mi ricordo, si chiama Andrea, non mi ricordo di cognome, ma comunque sarà un ragazzo, avrà 2-3 anni più grande di noi, insomma, un ragazzo, non ho capito. Frequentava con lo zio di mio amico e mi ha presentato lui, una cosa o l'altra, sono fatto venire qua a lavorare. Non ha fatto questo lavoro qua, ma ti dico la verità che sono stato contento perché è andata a buon fine la cosa, ecco. Sì, molte volte sì, no, quello di Babbo era spettacolare, era da vedere, ad angolo, tipo quello che c'è in campagna da me, tutto quanto bello rivestito, però non tirava, alla fine mi sono rompito il catto e una linea giù rampando in terra. Perché non c'è aria, guarda, i cammetti una volta perché funzionavano bene? Perché avevano le finestre che c'erano una volta, poi rilancio qualche altro, le finestre che c'erano una volta, entravano spifferi, oppure non chiudeva bene la porta e quindi l'entrata dell'aria nella stanza faceva sì che non faceva entrare, non faceva uscire il fumo dal caminetto. Oggi le finestre che sono, e la casa che è molto coibentata, le finestre sono ermetiche, con le varie si sente soffocare, capito? Quindi deve per forza uscire. Va bene, riprendi Gianni, ci sei? Beh, io sto chiudendo, tanto adesso vado a farmi la doccia e mi preparo per domani. Ah, perché anche tu ti lavi? Io mi lavo ogni 3 giorni. Sì, mi ha dato allora Ziggia se gli rifai mi due leva. Vabbè, cosa c'è da male nel suo terzo giorno questo? Ah, così è. Magari a cercare lì. Ogni giorno per togliere la polvere. No, io ci guardo la polvere, è tutto sudato, non me frega niente, intanto ormai mia moglie è abituata, quindi. Ah, così è. Dai, adesso chiudo. Tanto il lavoro che faccio non è pulito. Quindi mi devo un po' lavare. Dai, adesso chiudo che vado a prepararmi per domani. Dai. Ciao a tutti, alla prossima. Claudio, ci vediamo domani. Ciao. Ciao Dani, io allora che ti ho detto sono lì, dai. Perché poi devo fare un po' di cosa per Daniela e poi devo rientrare a casa, dai. Ok, ciao, a domani mattina. Vai ti. Va bene, ciao Dani, ciao. Anche io faccio lavoro di polvere, quindi non ti preoccupare, ti capisco. Va bene, Antonio. Ciao Dani, io per associarmi a loro, per non essere lo stupido, anche io faccio lavoro di polvere, faccio patate al forno. Io la vendo. ma io lavoro anche con la benzina, col gasolio, con il grasso, con l'olio, con tutto. Quindi un pochino mi sporco. Quello sì, va. L'importante è essere sporchi e avere le mani sporche e dignitose, poi del resto fregate. Quella è la minima cosa. Dai, adesso chiudo, ci sentiamo un altro giorno. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ma quello sì, lo dici perché da bambino tu ce l'avevi sempre le mani sporche e dignitose. Allora. Mi parolo. Pensa che, guarda, ti dico la verità, sono rinato nel senso che sto lavorando abbastanza bene, sto lavorando sereno, tranquillo, con persone in gamba, tutto il bene che uno può avere nell'ambito lavorativo, no? Però ci sono certi momenti che sembra che sto tornando indietro nel tempo di 30 anni, non di 10 o di 20, di 30. Cosa ti manca? No, sto mettendo un po' in ordine le cose perché voglio dire, cioè, queste cose che facevo 30 anni fa non le voglio continuare a fare oggi, quindi sto cercando di rinnovare un pochino l'azienda dicendo che quelle cose che stavo facendo io le facevo 30 anni fa, adesso, tipo che adesso rifornire i mesi con i bidoni. Ma quando mai, scusate, avete le comunità, ma quando mai non metti un fusto di gasolio sopra il furgone e usi la pompa elettrica? Questa è una delle piccole cose che sto esponendo all'azienda. Ma lo non sai cosa sono Cosetti, che le persone sono, come si dice, si abitano, poi si cullano, rimangono lì, non vogliono andare avanti, hanno il loro ritmo, la mattina entrano, fanno quelle cose, se tu gli spursi una chiave già li stai indisponendo. No, il problema è un altro, che come hai detto tu, l'abitudine che hanno, però con l'abitudine che loro hanno, io l'ho avuta molto prima di loro, siccome ho la confidenza di poter dirle queste cose, di poter parlare a tu per tu con il geometra, l'attuale datore di lavoro, e come vado a casa se muove ne ho, cioè, ma se mi vorrei da vito dobbiamo andare avanti, ma io carico un posto di gasolio e prendo la pompetta elettrica. Sì, va bene, bravo. Sino, leggiti quel messaggio che ti fanno arreggiare. Aspetta che non lo ascolto, riprendi qua. La mamma mi gioca aumentata, troppo gli te riesco a fattoristi. Ma Gianni doppio rumo non c'è più. Gianni ha telefono, sta moreggiando, lasciatelo stare. Ma lascialo fare, ma cosa lo lasci fare? Che ha rischio di infarto? Cazzo che c'ha la sua età, trattenetelo, chiamatelo. Io mi sono carivito. Mi? Pocca, te lo dico io come si fa. Si fa che la gente si sta buttando a tutto. E siccome stai, allora, io ho rimproverato l'ingegnere che faceva queste cose qua, questi attestati qua, l'ho rimproverato, ho detto guarda che non è lì che mi insegna a salire e scendere dal mezzo, perché ci sono 20 anni sopra un mezzo e altri 5 anni sopra un altro, nel totale di 25 anni, e lì sta sbagliando quello che sta facendo. È rimasto un po' così, forse sono qualche cosa più di me. Allora te lo spiego io, siccome sono dei corsi che mi sembra che siano 12 ore o 16, adesso non mi ricordo, che ti fanno solo la teoria, ma loro si basano molto sul fatto della sicurezza, non del lavoro, perché tu metti in mano, c'erano due della provincia di Sassari, addirittura non so bene neanche come entrare in altre lavori, e gli hanno detto, e voi? Ma noi dovremmo imparare adesso, e se bravi siete. Sì, perdonami. Smetto per fare questi perdonami, però cioè tu titolare di un'azienda, ok, con un mezzo che costa 200.000 euro, lo daresti in mano a uno che ti porta un attestato e non ha mai lavorato, non ha mai fatto esperienza su quel mezzo? No, ma non esiste. Allora diciamo la verità, che per esperienza mia personale ti posso dire una cosa, chiunque, ma dico chiunque, può essere anche il più piccolo pallino qualsiasi, chiunque si siede in quelle macchine lì, non è difficile, ascolta bene quello che ti dico, non è difficile adoperarle, il difficile è iniziare, ma soprattutto finire un lavoro in una determinata maniera, perché le macchine, come tutti quanti, si prendono l'abitudine e riesci a muoverle, perché le muovi, perché sai che quella è una leva per chiudere la benna, quella è una leva per girare, quella è una leva per alzare, abbassare, eccetera, eccetera, e quelle sono per farle camminare. Tutti sono buoni a farle muovere. Il problema è iniziare una cosa, ma portarla a termine. E mi stai dicendo niente, mi stai dicendo niente. Guarda che anch'io, il mini, non il grande, noi grandi non è che ne osservavamo, ma il mini mi mettevo a giocare là, qualche buco lo facevo, qualche cosa, ma giocando, Tino. Ma quando uno assume un dipendente e le dà un mezzo del genere e dice ecco questo c'è il lavoro da fare e non lo sai fare, ma che cazzo di figure ci fai se non l'hai mai fatto? Giustamente come dici tu, e sono d'accordo con te, il mezzo lo sai portare, uno è saperlo fare, muovere, uno è fare il lavoro che ti dà il geometra o ti dà l'ingegnere o ti dà il capocantiere, che devi eseguire, è lì il problema. Sì, ma a questo punto uno come fa a formarsi? Devono mettere una persona a fianco, fargli vedere come va, eccetera, eccetera, se no uno non si può mai formare. Ok Gianni, sono d'accordo con te, ma tu non ti puoi formare a 55 anni. No, quello no, quello no. Infatti bisogna iniziare da giovane a fare questi lavori. E poi è un lavoro che bisogna avere anche molta, diciamo, devi essere appassionato a farlo, perché non è, come dici tu, non è tanto guidare, quanto è il lavoro che si fa, uno deve saper fare il lavoro. Esatto, ma infatti siccome Claudio mi ha fatto ascoltare un audio di una persona, senza fare nomi e quelle varie, che si è introdotto in questo determinato mestiere qua, ma questa persona qua non è più un giovanotto, quindi non è neanche ricco, per carità, tutti possono imparare, però ci vuole esperienza annuale, negli anni, acquisita negli anni, non in giorni, capito? Già, qua so. Io so tagliare su Tino perché non è il mio campo, me ne guarderei bene di non far rispondere a Tino, ci mancherebbe altro, non è il mio campo. Io ho seguito tanti lavori in cantiere, Tino lo sa di cosa mi occupavo e cosa faccio, cosa facevo, anzi. Quindi è capitato un giorno che avevamo un lavoro grossissimo e molto importante alla diga del Covinas, ok? Alla diga del Covinas, che era importantissimo perché c'era una grossissima perdita, dove Sassari era già quasi 24 ore senza acqua. Si è purtroppo fatto male lo scavatorista di un'azienda abbastanza conosciuta di Porto Torres, non faccio nomi e non fatene neanche voi. Comunque, si è fatto male, quindi è dovuto andare via, è dovuto andare all'ospedale, insomma. Si è fatto un taglio con qualcosa della benna, attino, e quindi è dovuto andare all'ospedale. Subito visto, in due minuti, oh, come tra, non si preoccupi, ci sono io, perché cazzo, ormai mi sono fatti cazzo i capelli bianchi, ho detto, minchia, non è possibile, ogni sfiga, cazzo, come cazzo facciamo a terminare questo lavoro di notte, con i fari stavamo lavorando a Covinas. Cazzo, mi sono fatto il verghisco, subito, geometra, faccio io, lo sai manovrare il mezzo, guarda cosa sta facendo Giovanni, mica dobbiamo finire, nemmeno non mi fa danno, cazzo, perché se no, mamma mia, guarda, c'avevo il culo stretto, oh, si è pugiato innanzi alla vetta, sì, uno di quelli grandi, io manco mi ricordo che è grandissimo, enorme, cazzo, dentro, ho detto, indragami questo tubo, tiralo fuori, ma piano cazzo, piano che c'è la saracinesca attaccata, non ne abbiamo altre, non si preoccupi, mi indragaro tubo, ma sai come ha tirato la benna, o come si è sollevata la, come ha tirato, sai, uno che manovra piano piano, con la testa, tu, me ne darai atto come cazzo funziona, tira uno strappo, cazzo, io la giudico caputtato uno con lo scavatore, ha giù messo il caputtato, tu immaginati che il tubo gli si è girato, gli ha scavalcato la gabbina e si è uscito la saberra. Posso immaginare la scena, perché sono delle cose che purtroppo succedono se non hai esperienza, se non sai come posizionarti, se non sai il peso soprattutto di quello che devi sollevare, capito? Così ce n'è gente che si mette in queste, ma io vedo molte imprese, uno poi ti ripeto, giocando come hai detto tu, ti sei messo, stavi giocando, stavi facendo dei fusi, va bene, poi magari c'è quell'appassionato che ci mette più attenzione, ci mette la voglia di poterlo fare, ma quando utilizzi dei mezzi piccoli sembra anche un gioco e magari ti può anche piacere. Il problema è quando le macchine raggiungono determinati quintali e allora è lì che la sicurezza è un pochino più elevata, ecco. Sì, guarda, non ti posso mandare a foto, va giù, questo tubo era quasi da 4 metri, imbragato con le fasce, no? Punta e punta, proprio per essere bilanciato, essere tolto, perché dovevamo metterlo dall'altra parte, stavamo arrancando perché non avevamo manco più materiale. Cazzo, io guarda, un miracolo che avevamo tutti lontani, aiuto, fate una cosa, toglietevi tutti da lì, toglietevi tutti da lì, manco mari, io sono molto molto attento alla sicurezza. Ha giudito che c'era nei rovoscio, abbiamo mattato a tutti. È partito questo tubo Tino con la braga attaccata come ha tirato la leva in fretta per sollevare e decidere a giugliani con un joystick, capito? È partito il tubo, gli ha scavalcato la gabbina e si è uscito dalla sabbatti. Io l'ho giudito caputtato. espandimi, cingolato grande, ti sto dicendo che ancora oggi a raccontarlo mi viene lo zuddo, cos'è che sei uscito? Guarda, non te lo voglio dire, ce l'hai sceso da solo dallo scappatore, ha iniziato a correre per la campagna, cazzo, le rubiviene da preda, dico io se si bredi da lontano, vai. Le comiche, sarà meglio di mio collega che una volta a questo circo ci ordina, allora vendevamo anche i mobili noi, ci ordina delle camerette con l'armadio smontato eccetera eccetera, e questo mio collega, siccome erano tanti, lui dava il 100, praticamente doveva portarli alla Maddalena. Beh, fatto sta che carica questi mobili smontati e tutti confezionati sopra la pedana, e io gli ho detto guarda che non ce la fai, che ti sbilanciano, sporgevano troppo da una parte e dall'altra, guarda che ti sbilanci, cazzo, commenti a Sarugoso, ma ti ridi voi, che io lo sollevo, cazzo, sto mantenendo, come vedo il coso girarsi, io mi sono spostato, cazzo di cazzo, tutti i mobili erano tutti fasciati. Tipo quelli che fanno vedere su internet, qua scaricando le cose, per carità. È detto che gliel'avevo detto che sono un bindascio, cazzo sei un bindascio, meno male che ne avevamo altri giù, abbiamo fatto un camuffo, li abbiamo portati giù e ha fatto risultare che erano arrivati rotti, capito, questi mobili qua, e li abbiamo rispediti alla ditta, sicuramente qualche colpo che avevano preso, cose del genere, cazzo ce l'hanno cambiati, ma se no si riduiva a bagare. Casino. Molte volte sembra più facile di quello che sembra, però non è così. Antonio, ma ancora ci sei? Sono andato Antonio? Ci è passato, tanto siamo solo noi tre, mi sembra. C'è qualche domanda sul 10? No, quindi possiamo lavorare tranquillamente. Se a voi dumperisti, o ti, non ti faccio ridere. No. Chi è che sa portare il dumper? Io, cazzo tutti a patente, tutti speciali gente con Cristo, ma mi era un divertimento, mi state attenti, chi andava a prendere, ce n'erano due o tre per spostarci nel cantiere, sempre a Covina, quando stavamo facendo la Covina 2, ma lo ricordo come oggi, comunque lo sai di che pericolo, sì? Sì, io conosco, l'ho usato anche. Hanno detto, fai la cortesia, inizia a andare a prendere la sabbia che iniziamo a chiudere la linea dei tubi, perché noi quando facevamo le linee, soprattutto quelle in politilene, no, già lo sai, quelli a una fascia, quelli a incollaggio, poi sabbia sopra per essere isolata dal cemento, eccetera. E parte lì. Già partendo era giusto questo picchetto, boom, boom, c'è stata via davanti. Dai, attento, vai piano, mica ti cappotteggi, no, io non riesco, cazzo non c'ho la mano, scegli tu già bici buttano, no, non c'è più il copio, va bene, attento, Abbiamo visto, allora fatto 100 metri, adesso dimmi tu cazzo, se c'è la strada, no, che hai fatto, perché l'hanno fatta loro la strada, no, la facevano loro come la pala, no, facciamo la pala giusto, perché sono tutte strade con rami, queste cose così, quindi io prima di iniziare i lavori facevo tutto pulire. Allora dimmi tu, cazzo c'è i camminenti, non è che hai gabbina, non hai niente, no, c'è il dubbio, sai, però una vasca da bagno, cazzo. Un marraggio vera, un canto marraggio, una breda, prende questa pietra, Tino, si solleva questo coso, e se uscito, saltato la sedia, sai che c'hanno quei sedili con il giocato di molla sotto, parte cazzo, è uscito a mezzo alla campagna, si è tutto bragassato. Vabbè, e poi ho continuato a fare quell'esperienza. Io infatti c'era, perché poi ho chiamato l'ingegnere, il direttore dei lavori di Abbanoa, della Vamacciona, il cazzo, io me ne sto andando, se questa è una squadra dove io posso lavorare, voi sicurezza, o chi è esaurito, o chi sa portare tutto o non sa portare niente, quello che io me ne sto andando, alla fine ho fatto una riunione e ho messo a posto le cose, non voglio vedere assolutamente nessuno che sollevi né la mano, né che dica il geometra io so fare questo, io so fare quello. Tu che cosa sei? Idraulico, tu cosa sei? Pare picco, tu cosa sei? Domani mattina arriva uno scavatorista patentato e uno che sappia portare il dump, che sappia muoversi con i mezzi. Voi rimanete al vostro posto, manco male, se no ti giuro come fratello non mi stavo togliendo piede. Vabbè, ma oggi come oggi sai benissimo che la responsabilità, insomma, è di chi fa questi lavori qua. Poi se c'è una patente è ancora meglio, perché la responsabilità è di chi ha il mezzo, capito? Quindi guarda, ti dico chiaramente, sono venuti due con le controballe dell'officina turistana, con veramente bravi, siamo andati avanti con i lavori, grazie a Dio. Posso dire che anche al collaudo ci hanno fatto i complimenti, ma come personale, tornando al discorso che stavamo facendo prima, che tutti si dicono sì lo so fare, sì non lo so fare, lo so portare eccetera, non funziona così, perché io apprezzo la buona volontà di un operaio, perché ho avuto squadre di gente eccezionale veramente, lavorando proprio in armonia, in sintonia, con gruppi veramente bravi, ma certe persone, tu non puoi dire che se va a Bigamuro, ti manca a fare un pozzetto, me lo vai a fila di gaggio, arriva il cojo, i pozzetti grandi, tutta a fila di gaggio, cazzo arriva lo scavatorista, no, col mini, dovevo appoggiare il tappo, e appoggialo qua, come ti appoggiare un tappo ti farà tutto un bozzetto, ma che cazzo va a così? Sono qui, bisogna, insomma, l'esperienza nel lavoro lo sai, non è che ci vogliono anni, e poi, come stavo spiegando a Gianni, uno quando prende un muletto per dire, non è che non lo sa usare, lo sa anche far muovere, però l'esperienza te la fai nel lavoro operato, ecco. Gianni, riprendi. A volte i muletti sembrano macchine, perché se gli ultimi che stanno facendo hanno il joystick proprio come ha detto Claudio, sembrano macchine facili da portare e cose, ma non è tanto, quando tu li usi in altezza devi avere un certo equilibrio portandoli, devi stare attento dove appoggi, dove fai, perché secondo come l'appoggi li vai a vedere anche sotto e si caputeggia tutto, noi mettiamo anche 3-4 pedali di acqua una sull'altra, però devi posizionarlo in maniera perfetta, perché se no, se tu lo posizioni magari un po' più fuori dell'altro, basta che lo posizioni un po' più fuori, si squilibri anche se il baradutto alto, si bice la pedala che c'è sotto e cade tutto in terra. Cazzo, io li ho visto per pedale cadendo così, oi, quante li ho visto che le hanno buttate. A me una volta personalmente mi si è rotta la pedana di quelle che non erano Euro Pallet, si è troncata al centro e si è fatta tutti urati. Quella lì è stata l'unica volta a me che mi ha fregato e me lo sono dovuto anche pagare. Ah sì, perché i danni ve li facevamo pagare. E se facevi i danni grossi sì. Bene. I danni grossi ne parliamo. I danni grossi ne parliamo. I fiorini appena arrivati 20, 25 e quasi 30 fiorini. Allora avevamo quelli rossi, poi ci hanno cambiati i bianchi come a Banoa, quando c'è stata l'unione che hanno fatto, no? E infatti assolutamente sono tutti bianchi e sono arrivati lì da Candelaria, come si chiama? Quello che c'è, che via è quella, cazzo, per andare dove c'è Marcello, il boh, si è mai capito, Candelaria si chiama quel piazzale lì, sì, arrivi in tutti i chiamati. Il responsabile del distretto si informa, si deve occupare i mezzi, per favore, perché io ho mille cose da fare. Quindi va bene, dove sono i mezzi? A Scandellari. Si prenda un po' di ragazzi, poi piano piano magari a giro li portiamo tutti su. Una parte vanno a Canica, all'impianto di depurazione, poi il resto distribuisca lì, insomma, vedo un po'. Va bene, proprio 3-4 sì, alzo io, ho cattura come mettere la macchina, sì, vabbè, e non mettere la macchina, però sappi, va, è chiuso, no, cioè, devi guardare con i, non puoi guardare lo specchietto, si fa retromarcia, no, vabbè, vai giù, felici laterali, vabbè, io con me, e poi mi ho preso un altro, vabbè, che ce l'aveva già il fiorino qui, no, vabbè, si muove sul mettino, ti, oh, nuovo, arrivati tutti nuovi, nuovi. Io dai, cosa prendi? C'è con la lista, il 26 targa, guardate la targa, quello lo prendi tu, quello lo prendi tu, dai, io lo prendo io. Ed erano tutti col muso verso la parete del erano tutti in fila verso la parete del capannone scandellato. Forse metto marcia io e mi metto pronto per uscire. Ok, quell'altro lo stesso. Giovanni, vedi manovra, mi scendo dalla macchina, tutto innato, ma che cosa fece, no? Facendo retromarcia, cazzo, mi ha buttato una moto che non ha visto dietro, ma cazzo, c'è una macchina nuova, nuova, tutto il goffo nel garito, tutti ciacolando, a me stavo scendendo le lacrime perché non sapevo più cosa dire. Questa è la gente che serve per fare queste cose, ti ho detto tutto. Scusate un attimino che devo portare a mettere un po' di legna alla stufa, questo è un dopo. Ci sono anche gli sfigati, No, io, sì, no Gianni, ma quali sfigati, cazzo, io, se ti dico lo sai portare Fiorino, e mi dici di sì, ti dico, guarda che è chiuso, se si abita, no, mi ha detto, non vuoi mettere la macchina, no, non vuoi mettere la macchina, non è che è abita, e vedi con lo specchietto che c'hai in alto dentro, lì non vedi, devi guardare con i laterali, c'era questa moto parcheggiata, che era proprio parcheggiata dietro, adesso cazzo, se ti siede il Fiorino, e vedi che dietro c'è una moto, scusa, li chiedo, la moto, mi fai uscire? No, se puoi usare la porta retromarcia e fa il tubo, la lampada, la moto, fasciato la moto e fasciato il violino. Oh yeah. Vabbè, cose che succedono a chi lavora, sono cose che succedono a chi lavora, chi non lavora. Io per dire, una volta che si è rotta la pedana, che non è stata manco colpa mia, poi sono stato sfigato perché ero solo al capannone, cazzo, nel momento proprio che è caduta è arrivato il principale, pari batapusa. Beh, io stavo portando la pedana all'ultimo piano della scaffalatura, perché era molto in alto, l'ultimo piano era proprio al massimo del sollevamento del muletto. E praticamente ci arrivava a pelo, praticamente io stavo andando a pelo così, che ho urtato involontariamente appena lo scaffale e gli ho dato il colpo e si è girata, cazzo, se mi si gira la pedana, ragazzi, si è troncata in due, brum, tutto urlato il capannone, e sembrava, cazzo, una centrale del latte, e non è tanto lui, e cose combinate, e non è colpa mia, mi si è rotta la pedana, la vedi che la pedana è ancora spezzata, mi si è rotta, e hanno messo pedale di cavolo, invece di mettere un roppale te lo ripone leggere, è normale che il peso del latte non l'ha resistito, può darsi pure che abbia urtato io, non lo so, non mi sono reso conto perché passava appello, era al massimo dell'altezza dove lo mettevo e ci passava giusto. Infatti io ti ho detto così perché anche questo ragazzo abbiamo fatto il CID, nel senso che perché la colpa era sua, però il danno della macchina ce l'ha pagato lui, il danno ce l'ha pagato lui, capito? Abbiamo portato, perché noi eravamo commerciati con De Paulini lì a Predanieda, abbiamo portato la macchina a De Paulini perché le macchine erano tutte lì in plan, capito? Ce l'ha pagata, e ci due dopo perché ha dovuto mettere lo sportellone nuovo e tutto scatolato, che l'ha tutto portato in dentro, è costato circa tra lavoro e tutto, manodopera, sportellone e tutto, mi sembra che l'ha sfasciato anche il faraone, il faraio di dietro, mi pare che era intorno alle 300-350 euro. Dice lei me l'ha detto, io te l'ho detto, cosa ti ha detto? Ti ho fatto una domanda ben precisa, lo sai portare il Fiorino? Tu cosa mi hai risposto? sì, e allora lo seguì da me. Che cosa buttare io da giù di faccia la moto? Cazzo, quello me non è visto che dietro c'era la moto invece di mettere moto e partire. Ma non ci ho pensato, non ci hai pensato. Cosa devi dire? Volà, cioè volavi per scavalcare la moto. Ha detto, secondo me tu, cosa hai detto, non ti funziona. Beh, uno guarda che quando fa retromarcia, se avesse guardato magari. E vabbè. Sono momenti di sbadattaggine che non dovrebbero succedere. Un po' a tutti, quando si guida può succedere di tutto. E poi ci sono dei punti ciechi, specialmente nel furgone che usavo io c'era un angolo che era cieco che non proprio non vedevi. Però ci stavo molto attento, capito? Ci stavo molto attento. Già, le macchine chiuse, se hai esperienza lavori con i laterali, io ho sempre guidato una vita che guidavo i primi fiori dell'Esafe, erano addirittura per carità di Dio, quindi è chiaro che ci stai attento, per me è come una macchina, però ne succedeva in tutti i colori, come quando sono arrivate le scritte, no? Da mettere, le scritte da mettere nei fianchi delle macchine. Lì c'era solo da ridere perché allora hai ragione tu, proprio le comiche. A Sorso, l'avevo portato a Sorso io, all'impianto di Sorso, e ho caricato quello che c'era lì dell'impianto, ho detto, ti preoccupi per mettere, man mano che arrivano le macchine, le metti le scritte. Sì, non ti preoccupi. Chiamo arrangio io, mi raccomando, livellare, cioè metti le dritte, non le bunica tu a capo a terra, a capo, no. Ho detto io. Ne metti due nei lati in alto, nel cassone, una la metti nello sportellone di dietro e basta, però va bene, nel sportellone mette due in alto, al centro del cassone del fierino, prendi buona misura e uno lo metti dietro, no, perché la macchina si vede dai due lati, perché ci serve, lo sapete che con i satellitari devono vedere. Sì. Questo borro. A me c'è scritto, sì, ma guarda che bella, belle dritte, bravo. Cazzo, allo sportellone del fiorino ce l'è presente, apre prima uno sportello e poi c'è l'altro, no, che sono le due leva per aprire tutte e due, dopo lo sportello cazzo non abbia, no, ma come sono accorto io, perché la cosa era trasparente, praticamente rimane la scritta del colore della, la scritta rimane, no, lo sportello non apre, ma non ho fatto niente io, i furucci, i bomboli picciti, un adesivo l'aveva messo in mezzo, praticamente lo metto apre lo sportello, quindi è chiaro che era incollato, non abria. Bisognava tagliarlo al centro e far sì che si unisse quando chiudeva lo sportello, oppure se ci fosse stato qualche altro modo di metterlo, ma se è grande basta tagliarlo al centro dove proprio non c'è la lettera e poi come tu chiudi si uniscono le lettere. Oh, scusate, dai, entro per salutare che mi devo allontanare dalla radio. Ci sentiamo magari un altro momento, se coincide più tardi, se no a domenica. Ciao T, buona continuazione, ci sentiamo. Ciao T, grazie per essere entrato, grazie per le due chiacchiere e delle due risate. Già ci sentiamo, saluto a casa. Ciao a tutti, ciao. Ciao T, soli ci hanno lasciato qua stasera. Sì, ma già, sono già le 7:30, se 10 minuti poi mi preparo, vado. Esco un po' col cane. Non c'è freddo, c'è la finestra anche aperta, perché c'è troppo caldo qua dentro. Sono 20, 22, 23, 4, d'ora, 24 gradi. Adesso spengo il termosifone. No, già. La scritta potete metterla anche o su un lato solo dello sportellone, o sull'altro lato, capito? Non era grande, è una scritta, sarà 20 centimetri, 20 per 10, una cosa del genere erano. Invece della porta al centro dello sportellone, automaticamente l'ha incollato, non l'abbia mica. Perché quando sono grande... Che ti è successo? Cosa? È mollato. Ho mollato il microfono, cazzo. Questo microfono qua c'ha un difetto, là. Il tastino. Ti fa male il dito quando stai a premerlo troppo, perché è quadrato il tastino, non so se ce l'hai presente. Sì, della tattica, mamma mia, poco in mano. No, è piccolo, c'ha il tastino quadrato e ti entra nel dito, non è allungato come gli altri, è proprio un pulsante quadrato. Ah, sì, me lo ricordo. E vabbè, non è un pezzo di idiolastico. No, ma lì mi ha fatto ridere perché non mi sono incazzato. Ma scusa, cazzo, ma allucinante, sì. E tu l'avrei messo la scritta? Non l'ho messa. Ho fatto come ti abbi? Hai un buco che mi che non si attacchiava in gola, poi c'è questo lato, vai. E lì non ho detto niente. Ma tante cose, disattenzioni, guarda, io c'erano giornate che mi divertivo, ma mi divertivo davvero. Proprio gli ultimi 2 anni avevo una squadra a cui poi venivano tutti da Porto Torres, perché c'era stata una fusione, c'era un atti, un'associazione temporanea all'impresa, quindi c'era questo passaggio. Ma bravi che io a volte manco ci passavo, ero in contatto sempre con uno, con due, e beh, io sono a 30, non posso scendere, no, non ti preoccupare, già se non è diverso. Mi fidavo tantissimo perché erano veramente bravi, ma i primi anni, Iagosa, Giumagnado, Divi, Reno, Gianni, me. C'è gente che lavora senza attenzione, con la testa fra le nuvole, io avevo dei colleghi così, sembrava che cadessero sempre dal cielo, non comprendevano mai nulla. C'era un'offerta per dire, tu lo sai benissimo, quando ci sono le offerte devi mettere in testata, devi mettere per dire, quel tipo di acqua, quel tipo di prodotto per mostrarlo ai clienti, per essere più in apparenza, no? Beh, questi qua non sapevano mai che tipo di acqua mettere, non si leggevano mai quel volantino per sapere che cosa ci vuole, cosa usciva l'offerta, che cosa... erano un po' più stravaganti. Greco. Avanti. Buonasera, ben sentiti, Gesuino Cagallongo da questa parte. Ciao Antonio, ben sentito. Poi il Grodde. E allora? Grodino, non si butti più, no? Mi sto ascoltando tutta la sera, sono entrato esclusivamente per salutarvi, perché è un piacere sentirvi. Ti senti tutte le salzate a tu? No, negativo, siete un'ottima compagnia. E alla fine ci raccontano anche le avventure lavorative un po', perché c'è troppa gente che si improvvisa troppo e nel lavoro o lo sai fare o non lo sai fare, cioè sincerità per sincerità, perché c'è un tuo superiore che dice lo sai fare quello, non è vergogna a dire no, non sono all'altezza, non lo posso fare perché non l'ho mai fatto. Non puoi dire sempre sì, perché dicendo sì ti puoi far male tu e puoi far male anche agli altri, capito? Confermo, non si nasce poi come dicono gli inglesi, non si nasce imparati, no? Ma nessuno, infatti c'è il proverbio che dice nessuno è nato imparato, no? Quindi la tua esperienza te la fai magari affiancata con un altro che ha già fatto quel tipo di lavoro e di mestiere e tante altre cose, però non ti puoi improvvisare, sì faccio io, grazie a voi ammazzerai niente, tanto perché io ti giuro come fratello l'ho visto in tutti i colori e tante volte me l'ho vista brutta anch'io sul posto di lavoro, proprio a causa di persone che incompetenti, che si dichiarano faccio tutto io, non serve un cazzo, capito? A parole, dai, non volevo disturbare il QSO, riprendete che sono qua in quel Rex che vi ascolto comunque, piacevolmente. Ehi Antu, aprizza, ti vuole dell'antenna. Però l'antenna, bisogna vedere che antenna, poi non è quanto ce l'hai lunga l'antenna, è come la usi. Lo so, ma se non c'hai antenna ti sentono basso, eccetera, invece quando c'è una bella antenna sul tetto. Antonio arriva a Santiago Roma, qua, tu quanto lo stai ricevendo? No, io lo sento basso, lo sento Santiago 5. No, qua è 9, Santiago 9, radio 5. Ma sono basso, è normale, cioè c'è un'antennina dentro casa, un'antenna di macchina, ma l'avevi data tu mi questa veicolare? Quella che ti avevo dato io? E a quella che c'aveva la molla caricata alla base dell'antenna. Quella funziona bene, quella funziona benissimo. Santiago 9 c'è qua. Santiago 9, alla grande, va bene, non siamo molto distanti, però va benissimo, dai. Non problema. Beh ragazzi, dai, Gianni, io mi preparo, sono già le 8:20, così mi tolgo la mezzettiva per Pedro, poi se ci siete, mi piacere rifare 2 chiacchiere, altrimenti a casa. Per il momento vi saluto a tutti e due. Ciao Antonio e ciao Gianni e tutti quelli che sono all'ascolto su 10, ok? Ciao Gianni, bene. Ciao, buona passeggiata Claudio. Avanti Grode. Ciao Claudio, buona passeggiata. passeggiata è buona carica quando la farai. Assolutamente, sì, era quella lì, quell'antenna lì è una bomba, assolutamente, appena la rimetto a posto vedrai, perché non è nelle condizioni migliori, infatti la sto accordando con un accordatore, se no figurati le stazionali. Già, sono una